Signori, e one, e two, e one, two. Meritocrazia, e non l'ho mai sentito prima. Non fa parte del comune uso e costume di questo paese. E che significato ha? E che frangente poi si usa? Forse si usa quando dici per favore, pure per chiedere scusa. Meritocrazia, non c'è nel mio dizionario. L'ho cercata nei quaderni, libri in rete, ho sfogliato anche il diario. Ha una qualche utilità, è una cosa da mangiare. Io ho un amico che fra pranzo e cena pare faccia meritocrazia. Meritocrazia, io che ti bravo tu sei mia. Convoleremo nozze in chiesa, sarai per sempre la mia sposa. Meritocrazia, tu sei la gioia, sei la via, sei la ciliegia sulla torta, sei il pizzaiolo alla porta. Meritocrazia, forse il tesoro della mappa. Quindi ci toccherà cercare, contare, scavare tante buche nella spiaggia. O forse sta sotto il divano, oppure dietro la credenza. Per cui con scopa e con paletta la cercheremo tutti armati di santa pazienza. Meritocrazia, e se ne parla anche in TV. Dicono tutti che ci vuole, ma non si capisce dove. È un ingrediente del ragù. Dicono tutti che ci manca e che non si resiste senza. Lo dice anche Sua Eccellenza, l'eccesso di assenza, e poi non ci vedi più. Meritocrazia, divento matto, tu sei mia. Infine carpirò il segreto, sto analizzando il tuo alfabeto. Meritocrazia, ti scruterò l'anatomia col microscopio del dottore, ti vedrò scuro bicolore. Meritocrazia, vocabolo di fantasia, come i folletti e gli unicorni. La vedi solo per trenare.